Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La storia della TV americana è un argomento di studio interessantissimo. Gli intrecci tra la TV e la società sono continui e sorprendenti, e ricostruire nei dettagli la storia del piccolo schermo permette spesso di avere una lente privilegiata per leggere nelle pieghe più strette della società civile americana. C'è un periodo della TV degli States che viene chiamato Golden Age, l'età aurea. Va grosso modo dall'inizio degli anni 40 all'inizio degli anni 60. Un periodo effettivamente d'oro, grazie soprattutto alle prime grandi serie televisive. Alfred Hitchcock presenta, Ai confini della realtà. Sono serie che fissano uno standard qualitativo altissimo e appassionano milioni di telespettatori, cambiando abitudini e costumi degli americani. All'inizio degli anni 60, gli States entrano in un periodo di grande turbolenza, segnato da contraddizioni, sogni, luci e ombre senza eguali. La TV cambia. Nascono serie legate a un personaggio forte, ad esempio il grande dottor Kildare, prima grande serie di ambientazione ospedaliera. Tre sono i grandi network americani, CBS, NBC, ABC. Negli anni 60 la TV vive anche il suo primo momento di crisi e questi grandi colossi devono cercare nuove strade, nuove vie. Su una di queste vie incontreremo i nostri due personaggi di oggi. Siamo nei cieli del Pacifico, negli anni 40. Seconda guerra mondiale. Si affrontano i piloti americani e quelli giapponesi in una delle più sanguinose battaglie aeree della storia. Ai piloti che riescono a distinguersi con merito in questa tragica pagina di storia vengono assegnate massime onorificenze. Estate 1944. Alcuni piloti si sono appena congedati e ricevono la Distinguished Flying Cross, medaglia istituita nel 1927 per premiare le imprese di Charles Lindbergh. Tra i piloti che ne vengono decorati c'è anche il nostro primo personaggio di oggi. Si chiama Gene Roddenberry. Gene Roddenberry. Un grande aviatore militare e poi un aviatore civile. Questa è la prima vita di Gene Roddenberry, texano di El Paso, dove è nato il 19 agosto 1921. Non è per questa brillante carriera che viene oggi ricordato, una carriera proseguita dopo la guerra sugli aerei Pan Am fino al 1949, quando lascia la carriera di pilota ed entra nella polizia di Los Angeles. Il fatto è che Gene sente di avere un talento straordinario per un'altra attività, la scrittura. E in particolare la scrittura per la televisione. Mi sono licenziato dalla Pan Am nel 1948 e con la mia famiglia mi sono trasferito in California. Non avevo molte altre prospettive, così ho seguito le orme di mio padre e mi sono arruolato in polizia a Los Angeles. Ci sono rimasto 8 anni. Durante quel periodo la polizia di Los Angeles era coinvolta in un'attività di consulenza per alcune serie televisive criminali. Iniziai a collaborare adattando per alcune serie dei casi reali forniti da colleghi e amici con la paga di $100 a puntata. Così, collaborando con la polizia di Los Angeles, Gene Roddenberry inizia la sua carriera di sceneggiatore televisivo. È un piccolo lavoro, però ben fatto e pulito, che gli permette di ottenerne degli altri. Il mio primo vero lavoro televisivo è stato come consulente per Friedrich Ziff nella serie Mr. District Attorney nel 1954. Quell'esperienza mi ha dato una grande iniezione di professionalità e mi ha consentito di costruirmi una buona rete di contatti. L'anno dopo scrissi su commissione il pilot di una serie di fantascienza The Secret Weapon of 117. Fino a quel momento il mio genere preferito, quello che sognavo di scrivere, era il western. Ero un grande fan di Bonanza. Con quell'esperienza le cose cambiarono e inoltre potei dare le dimissioni dalla polizia per fare lo sceneggiatore a tempo pieno. The Secret Weapon of 117 mostra in maniera chiara quale sia il genere in cui la scrittura di Roddenberry riesce meglio, la fantascienza. Dimessosi dalla polizia di Los Angeles, Gene cerca di scrivere una sceneggiatura per una serie di fantascienza di successo. Nel contesto della Golden Age americana, però, non è un'operazione semplice. A dominare la scena sono le serie di ambiente ospedaliero e quelle di impronta giudiziaria poliziesca, nelle quali spicca lo straordinario successo di Perry Mason. Anche le TV locali, come la ZIV, per cui lavora Roddenberry, tentano di saturare il palinsesto con prodotti di questo genere. The West Point Story, scritta sempre da Roddenberry, va in onda sulla CBS tra il 1956 e il 1957 e in seguito sulla ABC nella stagione successiva. Gin è ormai nel giro che conta, sceneggiatore di prodotti medi che riescono a riscuotere un successo più che discreto. Rapido e preciso, viene cooptato anche per copioni singoli di serie già avviate come Highway Patrol, Have Gun, Will Travel, The Jane Wyman Theater, Bat Masterson, Naked City e anche Dottor Kildare. Insomma, il lavoro non manca, il ritmo anzi è altissimo, ma Gin trova il tempo per continuare a coltivare il suo sogno, una serie interamente concepita da lui. La mia aspirazione più alta era quella di realizzare una serie che fosse veramente mia, sulla quale avere il controllo totale, possibilmente di fantascienza. Era difficile per i tempi. Per diverso tempo provai a buttar giù idee per un concept fantascientifico, queste però venivano sistematicamente rifiutate. Così, intanto, per rafforzare la mia posizione, scrissi la traccia per una serie di ambientazione bellica, si intitolava Lieutenant, fu realizzata e andò in onda per 2 anni, dal 1963 al 1964. The Lieutenant va in onda per una stagione sola, ma fa buoni ascolti e ottiene vasti consensi. Non solo. Gin supervisiona l'intera produzione e ha l'ultima parola su tutto, rafforzando la sua posizione di produttore. Può instaurare contatti e rapporti di lavoro con vari professionisti che gli torneranno utili in seguito. In altre parole, da aviatore con la passione della scrittura, è diventato uno sceneggiatore televisivo professionista. L'ultimo sogno da realizzare ora è l'esplorazione dello spazio. Gin Roddenberry ha sempre amato il western. Nella sua idea, una grande storia di fantascienza dovrebbe fondere perfettamente elementi futuristici con altri classicamente western. Così, con questa idea in testa, si mette a scrivere il copione di un pilot per una serie TV. Lo intitola provvisoriamente A Wagon Train to the Stars. Immagina, in un futuro remoto, un'astronave concepita per esplorare pacificamente lo spazio, la sua frontiera, incontrare le popolazioni aliene, costruita per difendersi e non per attaccare. La NBC si dimostra interessata al progetto. Così, il 27 novembre 1964, agli studi della De Silo Company a Culver City, in California, la produzione del pilot inizia. Il titolo è nel frattempo cambiato. L'episodio si chiama The Cage, la serie Star Trek. La trama di The Cage, che in Italia si intitolerà Lo Zoo di Talos, è questa. Anno 2254. L'Enterprise, diretta verso una base stellare per operazioni di routine e per riparazioni dovute alle perdite subite durante l'esplorazione di Rigel VII, riceve una chiamata di soccorso proveniente da Talos IV, nei pressi del quale la Columbia è scomparsa diversi anni prima. Durante l'esplorazione, il capitano Christopher Pike viene rapito dai talosiani, che cercano di convincerlo, tramite illusioni, a formare una discendenza con Vina, l'unica sopravvissuta del Columbia. Chi ha dimestichezza con la serie si sarà accorto che nella trama del primo pilot di Star Trek c'è un elemento diverso rispetto a quella che poi sarà la tradizione. Il capitano si chiama Christopher Pike, mentre nella serie poi sdoganata il nome sarà Kirk. A interpretare Pike, Roddenberry ha chiamato un attore importante di sua conoscenza, Jeffrey Hunter. Hunter era stato tra gli interpreti principali di film come Sentieri Selvaggi e Il giorno più lungo, ed era stato Gesù in Il re dei re. La sua performance nei panni di Pike, tuttavia, non è eccezionale e la NBC sembra concentrare le proprie critiche in particolare sul personaggio del capitano. Molte cose non piacquero alla CBS. Molte critiche furono indirizzate al capitano Pike, che veniva ritenuto un personaggio scialbo e con poco appeal. Non era certo colpa di Joffrey, anche se certo quella non fu una delle sue performance migliori. La CBS bolla il pilot come eccessivamente cerebrale. Eppure i dirigenti del network televisivo non rimangono certo indifferenti davanti all'incredibile immaginario disegnato dalla fantasia di Roddenberry. Così viene trovata una soluzione decisamente atipica: realizzare un secondo pilot, aggiustando il tiro su alcuni elementi. Dovetti praticamente cambiare tutti i personaggi. L'unico che lasciai intatto fu quello di Mr. Spock, interpretato da Leonard Nimoy. Quello su cui intervenni maggiormente fu il capitano dell'Enterprise. Nel nuovo pilot che Roddenberry scrive, il capitano si chiama James Kirk, un personaggio destinato a segnare la storia della TV in tutto il mondo. Ora, perché un personaggio funzioni, è scontato che ci debba essere un attore con un volto e una personalità adeguate. Per Roddenberry non è un'impresa semplice. Iniziano provini su provini. Poi, un giorno, il padre di Star Trek va a teatro, a New York. In uno dei teatri di Broadway, Roddenberry va a vedere Il mondo di Susie Wong, pièce teatrale di Paul Osborne, tratta da un romanzo di Richard Mason. Da poco più di un anno, tra l'altro, ne è stato tratto anche un film con William Holden. Proprio nella parte che Holden interpreta sul grande schermo, quella dell'architetto Robert Lomax, Gene vede un giovane attore che lo colpisce moltissimo. Non ha niente in particolare di straordinario. Ha però un volto espressivo nel quale gli sembra di cogliere un'autorevolezza disinvolta e allo stesso tempo fragile, che sarebbe perfetta per il suo capitano. Gene non ne conosce il nome, si informa subito e al termine dello spettacolo si adopera per contattarlo. Il nome di quell'attore che avrebbe dato un contributo determinante a trasformare in realtà il sogno spaziale di Gene Roddenberry è William Shatner. Shatner è un attore canadese di Montreal. Nel 1966 ha 31 anni. È cresciuto e si è formato nel Quebec, ma dal 1956 si è trasferito a New York per inseguire il sogno di diventare un attore. In Canada Shatner si era costruito come attore shakespeariano. Forse per questa sua austerità di fondo, la sua prima produzione americana è decisamente impegnata, I fratelli Karamazov, al fianco di Yul Brynner nel 1958. Un ruolo minore, e minori sono anche i successivi ruoli che William riesce a ottenere al cinema. Meglio gli va con la televisione, reclutato in diverse serie TV, tra cui anche la celebre Alfred Hitchcock Presenta. Il successo maggiore della fase giovanile della sua carriera, però, Shatner lo ottiene a teatro, proprio con Susie Wong. È il trampolino che lo proietta verso il grande successo e lo lancia verso lo spazio, ultima frontiera. You say you want space, little time on your own, to clear out your mind. Really unwind, just be alone. Things are moving too fast, going too far. Destini incrociati. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. È un incipit inconfondibile che la maggior parte di voi avrà sentito almeno una volta nella vita. Introduce tutte le puntate della serie classica di Star Trek. Subito dopo prende la parola il capitano Kirk. Rapporto a tutte le sezioni. Signor Spock, ci sono disordini a poppa. L'ufficio di sicurezza segnala incidenti tra gli uomini dell'equipaggio. Allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali. A tutti i reparti. Gli episodi della serie classica di Star Trek iniziano generalmente con la voce del capitano Kirk che registra le sue annotazioni sul diario di bordo dell'astronave Enterprise, citando sempre la data stellare. Quello del diario di bordo è un espediente utilizzato per fare iniziare le storie subito nel vivo dell'azione e per sintetizzare lo svolgersi di eventi poco importanti ai fini dell'azione nel corso delle puntate. La trovata della datazione astrale, invece, a detta dello stesso Roddenberry, dovrebbe avere la funzione di straniare gli spettatori proiettandoli in una dimensione completamente ignota, in un futuro remoto dove tutto può accadere, per ottenere l'effetto della totale sospensione dell'incredulità. Queste sono alcune delle caratteristiche del secondo pilot che Gene Roddenberry recapita alla NBC nel febbraio del 1966, dopo oltre 6 mesi di lavoro. Il titolo dell'episodio è Where No Man Has Gone Before. La struttura è decisamente diversa dal tentativo precedente. Più azione, più ritmo, personaggi completamente cambiati. L'unico personaggio ad essere mantenuto è quello del dottor Spock, interpretato da Leonard Nimoy. La NBC lo riteneva troppo diverso, anomalo, quasi satanico, spinge per toglierlo. Roddenberry si oppone, la spunta e fa bene. Spock sarà uno dei personaggi chiave per il successo della serie. La vera scelta vincente, però, si rivela essere quella di Shatner nei panni del capitano Kirk. Innanzitutto, il nuovo personaggio viene disegnato da Roddenberry con molte sfumature più affascinanti rispetto al predecessore Pike. Kirk vive di equilibri intensi di forza e fragilità, equilibri che Shatner riesce a comunicare alla perfezione. Il sogno di Roddenberry si realizza. Questa è la trama di Where No Man Has Gone Before. Seguendo un segnale di soccorso, l'Enterprise arriva al confine della galassia, dove viene scossa da un potente campo di energia. In seguito a ciò, Gary Mitchell subisce un forte incremento dei propri latenti poteri di percezione extrasensoriale, iniziando a sentirsi superiore al resto dell'equipaggio, autoproclamandosi divinità. Insieme alla dottoressa Elizabeth Danner, i cui poteri extrasensoriali iniziano ad aumentare, Mitchell riesce a fuggire da una struttura di Delta Vega dove il capitano Kirk pensava di poterlo rinchiudere. Kirk, nonostante l'amicizia che lo lega a Mitchell, lo insegue e infine lo neutralizza, aiutato dalla dottoressa Danner. La regia dell'episodio è firmata da James Goldstone, la fotografia da Ernest Haller, premio Oscar per Via col vento numerosi anni prima. I dirigenti della NBC sobbalzano quando vedono il secondo episodio e il piano per la serie che Roddenberry ha in mente. Capiscono subito, infatti, di avere per le mani un prodotto evocativo, visionario, potente. Una sorta di western spaziale dall'impatto immaginifico straordinario. Il debutto avviene l'8 settembre 1966. È l'inizio di 3 stagioni straordinarie. Per 79 episodi e 3 anni, fino al giugno del 1969, Star Trek si fa lentamente strada nell'immaginario collettivo. Il successo della serie non è immediato. Il pubblico gradisce, ma gli indici d'ascolto non sono fenomenali. Tuttavia, diventa totalmente originale e inedito il rapporto tra la serie e il suo pubblico. Star Trek è la prima serie televisiva per la quale possa essere usato il concetto di fandom. Per fandom si intende una sorta di vastissimo reticolo di fan e sostenitori della serie, una comunità di cultori il cui trasporto va ben oltre la semplice passione. Nel caso di Star Trek, i fan della serie trasformano lo show televisivo in un vero e proprio fenomeno sottoculturale. Iniziano ad organizzarsi in gruppi, fondano club, pianificano manifestazioni a tema, spesso in costume. Producono letteratura tematica che approfondisce le questioni della serie, catalogando ad esempio le molte razze aliene presenti, spiegando la fisica delle astronavi e delle tecnologie usate dai protagonisti. Proliferano riviste, nascono fumetti. Per Star Trek, insomma, dopo la fine della serie nel 1969, inizia una seconda, straordinaria vita che ne alimenta il successo, come ricorda lo stesso protagonista, William Shatner. È stata una vicenda molto strana e particolare. Per i 3 anni in cui è andata in onda, la serie ha riscosso un buon successo, discreto, insomma. Poi però, quando si è conclusa la terza e ultima stagione, è come se qualcosa fosse iniziato. È stato incredibile. Nelle 3 stagioni della serie, Star Trek ha seminato. I frutti sono germogliati negli anni 70 in una maniera che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Così Gene Roddenberry, l'ex pilota e l'ex poliziotto che amava i western e sognava la fantascienza, riesce a concretizzare i suoi sogni. Nonostante lo straordinario successo, anche e soprattutto postumo, della prima serie, non risulta possibile metterne in cantiere una seconda. Nella realizzazione della prima, Gene, che ha ricoperto il ruolo di produttore, ha tentato di tenere molto bassi i costi di produzione. Ci è riuscito, ma è indubbio che una serie di fantascienza abbia costi per sua natura più elevati rispetto ad altri generi. Così, almeno per il piccolo schermo, su Star Trek cala momentaneamente il sipario. Avevamo fatto il possibile per spendere poco. In realtà quest'ottica basso budget ci ha anche permesso di trovare delle soluzioni che hanno poi fatto la fortuna della serie. L'esempio più celebre è sicuramente il teletrasporto. Il teletrasporto fu un tipico esempio di come fare di necessità virtù. Realizzare le sequenze di atterraggio delle astronavi su vari pianeti avrebbe richiesto troppo in termini di effetti speciali, così come gli attracchi tra nave e nave. Così, spingendoci un po' in là con l'immaginazione, ci siamo inventati questo strumento, che è poi diventato uno dei simboli di Star Trek. In realtà tutta la tecnologia di Star Trek ha un po' questa matrice. Quello che colpisce però è la straordinaria capacità di Roddenberry di prevedere il futuro e di capire, quasi come un Jules Verne delle serie TV, in che direzione si stesse evolvendo il progresso tecnologico. Mini dischi, telefoni cellulari, computer palmari sono all'ordine del giorno nella serie, in un momento storico in cui ancora erano ben lungi dal vedere la luce. Il teletrasporto, i viaggi più veloci della luce avanti e indietro nel tempo, sono oggi oggetto di autentiche ricerche scientifiche. Insomma, Star Trek, la serie originale, come viene chiamata dai fan, in onda dal 1966 al 1969, segna la consacrazione di Gene Roddenberry. Un successo che il produttore saprà sfruttare al meglio e che tanto deve al volto di William Shatner, il capitano Kirk. Per Shatner, però, il successo di Star Trek si rivelerà anche un boomerang. Destini incrociati. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. La storia di Star Trek, una delle serie di maggior successo della TV, passa attraverso due uomini, Gene Roddenberry e William Shatner. Il primo, ex pilota militare prima e civile poi, ex poliziotto e grande sognatore, è lo sceneggiatore e il produttore che immagina il mondo della serie TV che va in onda sugli schermi americani dal 1966 al 1969. Il secondo è l'attore protagonista, voluto da Roddenberry dopo il rifiuto del primo pilot per vestire i panni del capitano Kirk, William Shatner, attore canadese che raggiunge il successo a 35 anni proprio grazie a Star Trek. Quando è legato a un personaggio destinato ad essere così popolare, però, il successo può diventare un'arma a doppio taglio per un attore. Ed è proprio il caso di William Shatner. Il problema per Shatner è proprio Kirk. Nell'immaginario degli spettatori, il suo nome rimane indissolubilmente legato a quello del capitano dell'Enterprise. Così, quando prova a cimentarsi con altri ruoli, nonostante le indubbie doti, gli spettatori continuano a vedere Kirk. Prova a vestire i panni di Sherlock Holmes, ad esempio, in una produzione degli anni 70. Gli spettatori vedono Kirk vestito da Sherlock Holmes. È il destino di tutti gli attori che si trovano ad affrontare un personaggio forte e ingombrante. Ne finiscono inghiottiti. Un destino simile, ad esempio, è quello che colpisce il collega di Shatner nella serie Star Trek, Leonard Nimoy, alias Dr. Spock, condannato ad essere visto a vita come un vulcaniano. Shatner, però, con molta professionalità, si adegua e per una fetta consistente della propria carriera continua a fare Kirk. Anche e soprattutto grazie al fiuto per il marketing dell'amico Gene Roddenberry. It was way past midnight and she still could. A cavallo tra la stagione 1973 e quella del 1974 viene prodotta una serie animata omonima. Shatner viene chiamato a doppiare il suo personaggio. Negli anni successivi partecipa a manifestazioni e special televisivi dedicati a Star Trek. Nel 1978 viene messo finalmente in cantiere un nuovo ciclo di stagioni di Star Trek. Sembra tutto pronto, poi però succede qualcosa di imprevisto. Sì, era tutto pronto per l'inizio della nuova produzione. Poi però improvvisamente uscì nelle sale cinematografiche Guerre Stellari. Il film di Lucas ebbe un impatto simile a quello che Star Trek aveva avuto anni prima. Aveva molto in comune con la mia serie. Questo indusse gli investitori a rinunciare ad un investimento per la televisione e ad investire tutto sul cinema. Si sarebbe dovuta chiamare Star Trek Phase 2. Si intitolerà invece Star Trek The Motion Picture. Roddenberry infatti non si arrende e ottiene di portare i suoi personaggi sul grande schermo. Alla fine del 1979 il film esce sempre con Shatner protagonista e Nimoy coprotagonista. Seguono altre 4 pellicole, la prima di una lunga e fortunata serie cinematografica di ben 11 titoli. Nel 1982 esce Star Trek 2, L'ira di Khan. Nel 1984 Star Trek 3, Alla ricerca di Spock. E nel 1986 Rotta verso la Terra. Nel frattempo, nel 1987, vede la luce un nuovo telefilm di Star Trek, The Next Generation, che ottiene un successo enorme e rinverdisce i fasti del fandom dei Trekkers. La serie Next Generation presenta un nuovo capitano, Patrick Stewart, che interpreta Jean-Luc Picard, il nuovo comandante dell'Enterprise. Paradossalmente per Shatner è l'inizio di una seconda carriera. Il nuovo capitano lo libera, almeno parzialmente, dalle maglie di Kirk. Arrivano per lui i successi di 2 serie televisive, T.J. Hooker e Boston Legal. La serie di Hooker fu girata a partire dal 1983, ben prima che Next Generation vedesse la luce. Tuttavia, il grande successo di questa serie poliziesca arrivò dal 1987, quando in qualche modo il mio volto venne affrancato dal capitano Kirk. Ciò nonostante, penso che il capitano dell'Enterprise sia il più bel ruolo che mi potesse capitare e non smetterò mai di essergli grato. Anche per Roddenberry, quindi, gli anni 80 sono ricchi di grandi successi e soddisfazioni. Questo ex pilota, che ha trovato nello spazio la fama e la gloria che aveva sempre sognato, muore però nel 1991. La sua dipartita segnerà l'inizio di una serie di controversie legali sui diritti dei personaggi di Star Trek. La cosa più significativa, però, è che Gene, in qualche modo, finisce il suo percorso di vita tra le stelle e i pianeti che ha sempre sognato e immaginato. Tra le sue ultime volontà, infatti, Gene ha stabilito che le sue ceneri debbano essere spedite nello spazio profondo, in una capsula. L'anno prossimo, 2012, la società specializzata Celestis manderà in orbita le sue ceneri e quelle della sua quarta e ultima moglie, Majel Barrett. Le ceneri della coppia saranno sigillate in capsule speciali, fabbricate per resistere alla permanenza nello spazio e trasportate da una navicella spaziale assieme ai messaggi dei fan. Gene Roddenberry riposerà per sempre nello spazio, la sua ultima frontiera. Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete.